mascherina, rimane con la mascherina dentro il bar, non se la toglie mai, assolutamente, e fa bene, perché è così, però c'è troppa libertà, troppo in fretta, si è mollata questa cosa, e non va bene, sono sicuro al 100% che ne avremo le conseguenze tra qualche mese. Vai Giulio. Sì, ma è anche una questione di rispetto nei confronti del prossimo, perché non è possibile, non si può essere irrispettosi nei confronti della gente, perché questo qui è anche una questione di maleducazione, oltre che di cocciutaggine, perché la gente cocciuta così, e lo sappiamo benissimo, sono quelli che creano dei problemi. Tu immaginati se dovesse di nuovo risalire il numero dei contagi e chiudere di nuovo le attività, tu immaginati il razza di danno che fai all'imprenditoria in generale. Non è possibile, dai, assolutamente. Purtroppo ci sono delle persone che sono incosciamente scalmanate come giudizio e allora continuano ad essere così e a fare i loro comodi. Vai Natali. Vabbè, la che morì va, cosa vuoi che ti dica giusto? Sì, però non è giusto, lasciamo rifare, d'accordo, quello che vuoi, però non è giusto, assolutamente. È una questione anche di rispetto, soprattutto di rispetto, nei confronti degli anziani soprattutto. Non perché io sono anziano adesso, ma non ci sono solo io nella vita, ci sono anche tantissimi altri anziani che hanno bisogno di rispetto. Vai Marco. Sì, io al limite qua lo faccio per tutelare mamma, giustamente lì. Non andare in luoghi troppo affollati, io già ero scettico un po' di base, però evito i comportamenti troppo a rischio, ecco, diciamo. Oh yeah. Claudio, tendi l'orecchio, si sente la ventola in lontananza? A me me ne sta mangiando il cervello, sto provando con l'alimentatorino lì, piatto, switching, sembra che vada, l'ho provato con un carico da 15 ampere per vari minuti, vedo che non è scoppiato nulla ancora. No, ma si sente pochissimo, si sente appena in lontananza, niente di che, già va bene. Purtroppo io più di quello non potevo mettergli come carico fittizio, diciamo. 15 ampere, non so un po', che vabbè, quello da 80 ampere, 80, metti che reali ne dia 40, è anche troppo, poi per il prezzo che costano, poi vedo che alternate non è produce quando moduli, QRM in ricezione non ne produce, insomma posso ritenermi soddisfatto, tanto uso secondario, io userò gli altri alimentatori Proxel, quello è usi futuri o altri QTH, K. Vediamo se è entrato il profeta, Gianni? Niente, chi vuole entrare? Canale 10, avanti. Qui lo sentite questo, cosa è? Sì, qua arriva un bel forte, arriva più o meno quanto è Giulio, 5-6. Ma non capisco se è tedesco, se è inglese, se è spagnolo, non capisco il parlato. Io mi allontano, riprendo più tardi al limite. Io dovrei fare, mi devo fare un metro circa, un metro e mezzo di cavo rosso nero con coccodrilli alle estremità, per cose temporanee così. E mi sa che inizio, dai. Tanto siamo in pochi, magari il mordente non è molto. Va bene, poi. Va bene. Ehi, dai, stacchiamo 10 minuti. Guarda, rinfrescarmi un pochino, Giulio, se rimani in ascolto ci sentiamo dopo anche per Marco e Natalino. Ok, vado a darmi una rinfrescata, dai, animi te riprendo dopo. Ok, d'accordo, a dopo eventualmente se coincide. Marco, comunque se sei ancora all'ascolto, ti volevo mandare un dato solamente. Ritornando un attimo per la lunghezza del cavo di discesa, dovresti fare 99 per la frequenza che utilizzi e ti dà il numero di metri che occorrono per essere ben tarato con l'antenna. Marco, mi stai seguendo? Sì, c'era anche per l'antenna c'era questo fattore, dove tipo moltiplicare per 0,95, 0,90 per avere la lunghezza utile. lì, adesso non mi ricordo, guarda. Ho detto, io non ho mai approfondito perché non mi sono fatto problemi, io mi mettevo il cavo che serviva, l'antenna la mettevo all'altezza che volevo io, come va. Però comunque manda tabelle, schede, manda quello che c'hai, che mi riguardo con calma. Ok, no, ti volevo andare solamente a questo dato, poi casomai già ti mando anche un articolo che ho letto. Sì, comunque 99, diviso la frequenza che utilizzi, ad esempio 27.075 per esempio, oppure 27, lui parla di 27.185, canale 19 che è centro banda, no? Poi moltiplicato per 1, per 2, per 3, per 4, 5 più volte, fino ad arrivare alla lunghezza che ti serve, senza andare, può essere qualcosina in più oppure qualcosina in meno, interessante che arrivi alla radio con quella taratura lì, va bene? Sì, no, perché così, detta così non seguo bene, devo vedere qualcosa di scritto. E poi si diceva che comunque questa cosa dei multipli d'onda per quanto riguarda il coassiale che arriva fino all'antenna era un po' una leggenda metropolitana, perché se l'antenna funziona correttamente e quindi la calza non fa da... Aspetta, non te lo so spiegare. Se l'antenna funziona correttamente puoi metterlo anche di misure casuali, non devi andare di 11 metri multipli o sottomultipli, capito? Solo certe antenne che hanno delle necessità hanno bisogno del cavo che li fa da tipo da radiale, che ne so, qualcosa del genere. C'ho il manuale di radioamatori lì, come si chiama? Radiotecnica radioamatori, mai aperto, non è mio peraltro, era di un ex persona che frequentava a casa, non sapevo nemmeno, l'ho trovato dopo anni l'altro giorno, però visto che non devo dare esami non ne apro nemmeno. Ok, sì, perché si dice che deve essere accordato anche il ROS, deve essere accordato al 100% per avere il massimo della resa, che poi si somma a quella che è la lunghezza appunto dell'onda. Vabbè, dai, dopo ti mando qualcosa, vediamo un po' se riesco ad inviartelo e vediamo un po', poi con calma te lo leggi e ti rendi conto che rispecchia esattamente tutto quello che ho detto io almeno un paio di anni fa, quando avevamo discusso con Roberto, non so se tu te lo ricordi, se c'eri, però lui aveva le sue teorie e io avevo le mie, va bene lo stesso, sia la mia che la sua. Va bene, a dopo eventualmente, ciao Marco, alle prossime. Sono qua, sono in questa stanza comunque. Sì, mi ricordo una volta anche noi abbiamo avuto un po' una discussione, a Giovenza Farremo, riguardo al fattore di velocità, ti ricordi? 0,66, 0,81 in base al tipo di cavo, e io ho detto, beh, non è determinante, a meno che non siano impianti talmente delicati, talmente professionali che devono rispettare proprio ciecamente quelle cose lì, ti ricordi? Sì, ma l'ho detto anch'io, va bene, lo sei. 50 centimetri in più, 50 centimetri in meno, per noi va sempre bene, ma io sto parlando per essere precisini per quanto riguarda la teoria che deve essere dell'elettronica, capito? Yeah. Oppure a certe frequenze, dice quando lavori su certe frequenze critiche, dove tutto critico, sai, microonde, che deve essere tutto perfetto, tutto... E lì basta un errore di poco che si creano pasticci. Capito? Proprio si parla di microonde, onde talmente corte che lì deve essere tutto proprio a regola d'arte. Comunque manda che poi me lo guardo. Intanto inizio a spellare i cavi qua. Ok, va bene, dai. A dopo eventualmente. Ciao Marco. Ciao anche a Giulio, a Natalino, al profeta ce l'ascolto, Claudio ce l'ascolto, dai, io lascio acceso. QTC, canale 10, c'è qualche cuoco nell'ascolto per un'infotecnica? Avanti Marco. Niente, sai, se il disossidante per elettronica, quello secco, il Dregot, cioè che si asciuga all'istante, è molto volatile, volatile, sai niente se rovina le plastiche? No, non ti non ti posso aiutare in merito, non lo so. Qualche parere, qualche riscontro magari potrebbe dartelo Claudio, Natalino, insomma, chi adopera roba del genere. Io sono da tempo che non adopero, dovrei comprare anch'io, comunque. Niente, non ti posso aiutare per adesso. No, vabbè, era per un adattatore da mono a serio per le cuffie, mi. Mi spaventa la mente volatile, ripeto, che lo spruzzi pochi istanti ed è già evaporato, dai, male che vada ci butto l'adattatore, ne ho più di uno. Ok, va bene, bianco per me. Ok. Qua sono tutti spariti, mi sono andati tutti a far merenda, che il caffè, che il gelato, eccetera, eccetera. Già me ne sono accorto. Comunque questi del, siccome lì viene anche bene, basta avere un bel lancio discreto, guarda, fai un gavettone in piscio ai a questi di Pullman. Sarebbe da fargli lo scherzetto. Ma ripasserei dalla ragione al torto. Hai sentito il casino che fa, sì? Sì, già, sì. No, qua me ne sta mangiando il cervello alla ventola, è esasperante, cioè questo. Figurati lì quell'affare lì, mi pare un tank, un carro armato sembra. Sì, poi anche presumo che lo scarico non sia pulitissimo nemmeno, no? Con quei motori. Ma che dirti, boh? Oh, yeah. Vabbè. Adesso oggi è andata così, vediamo domani cosa succederà. Sì, domani è uguale. Ha detto che ci sono lavori per le tratte, finché non mettono a posto quelle tratte lì ci sarà la spola di Pullman. Bella rottura, sì. Va bene, cioè non va bene, però per adesso è così, dai. Oi. Tra Puma, ambulanze che passano, a Burotti Ghita, mamma mia, gloria. Poi c'è un calcio, 29 gradi, cazzo veramente, non voglio muovermi per non bruciare calorie e per accaldarmi, dai, per carità. Sì, vabbè, non sono tanti, fuori magari, qua in casa ancora sta bene, tra virgolette, vabbè, io sono in mutande, quindi se bussano aspettano che io metta i calzoncini e la maglietta e poi apro, se ne voglia pure di aprire. Ci ho mandato quel mostriciattolo che c'ha quella ventola infernale, è sempre in presa poi la ventola, accendi questo... Ah, ti mangia lo gabbo, chissà a quanti giri gira. Molto l'hai ripagato? Aspetta che vado al sito. Io penso 26 euro in tutto, mi pare fosse 19 euro, 19,99 più 5,99, quindi fai 20 più 6, 26 euro, loro dicono 80 ampere, non è vero, ma metti anni di a 40 e grasso che cola, per quel prezzo l'ho regolato a 13,8 per ora se non decido di abbassarlo. C'è quella morsettiera ambigua, no? Che c'ha quel coperchietto di plastica, però ci ho messo l'adesivo, l'hai visto? Me l'ho stampato io da internet. Non c'è che mamma o qualcuno cominci a frugare cercando roba, no? Comincia a mettere la mano in zona, almeno lo sanno che è roba un po' ambigua. Vabbè, cazzo, quel cartello gli hai messo, crocro. Cazzo, la fregatura che fa su me di casino, tipo Pullman qua sotto, capito? Comunque qualcuno mi ha suggerito che se non scalda, perché questi sono non scaldano mai praticamente, a meno che non gli attacchi decine di ampere fissi 24 ore al giorno, non scaldano mai, dice la ventola via la scolleghi da dentro. D'altronde io nel Proxel 30 ampere, Proxel quelli con la strumentazione, no, eccetera, rimaneva freddo, sempre freddo rimane, temperatura corporea, e la ventola gliel'ho tolta, infatti rimane freddo, la ventola faceva un casino anche perché nel limitatore prox era andata fuori asse o si erano o erano partiti i cuscinetti, quindi si è distrutto il ronzio, sembrava una motosega, e lì l'ho scollegata, c'è un piccolo connettorino tipo computer. E qua farò lo stesso, mi sembra, se vedo che non scalda mai lì allo stacco, No, si è bruciato. Tranquillo Claudio, c'ho quel termometro a distanza, li controllo, li tolgo il coperchio e li controllo la temperatura dei componenti. Cioè durante l'uso normale, col baracco, no, li controllo ogni 8 minuti la temperatura dei componenti. C'è quei termometri infrarossi che punti sulla fronte, servono anche per gli oggetti, per quando cucini. Se vedo che c'è quella componente a rischio, la ventola, vabbè, gli lascio attaccata. Se no gliela stacco, all'altro glielo staccato ed è sempre freddo, anche quando lo usi è sempre freddo, non scaldano. Non scaldano perché usiamo talmente pochi watt, così pochi watt, persino con lineare, sono così pochi watt che non scaldano mai questi alimentatori. Ma metti una resistenza come l'ha fatto Giulio e rallenta la velocità, diventa molto più silenziosa. Io l'avevo fatto una volta ed era perfetto, capito? Io ce l'ho il prossimo, però ce l'ho fatto l'attaccata, ma io gli alimentatori, tranne quelli di linea, che sono a trasformatore, ce l'ho lontano, quindi non si sente. Qua è una bella rogna, cioè io non sono abituato, io sono abituato qua a mettere un volume minimo perché c'è il silenzio totale in questa stanza. E quindi questa ventola adesso, infatti ti ricordi quando entra Pomponio? Claudio, quando entra Pomponio che ha l'amplificato si sente quella turbina di fondo, non una ventola, una turbina a Bari, è assordante, guarda, lo dico, Antone abbassa il mic che non si capisce niente. No, ma quello, se non fa qualcosa che conviene usare il microfono, ma poi non dovete dare retta un elicottero, vai già. E avvedomi, adesso, dentro una turbina di aereo, adesso. Tanto poi va già l'elicottero, è andato a Lugambo, qua in dentro. Io ce l'ho amplificato, sono tutti, io non uso microfono normale, però sì, si può sentire in lontananza la TV, ma è ventola a te, ventola a senti. E a 2 metri l'alimentatore, forse si sente, non lo so, ma non è fastidioso. Sì, silenzioso, vabbè, io non ho il problema perché c'ho uno di quegli alimentatori tipo per PC portatile, quelli neri, piccoli. 12,5 volts, adesso non mi ricordo quanti ampere sia, 6,5 o 6, e per il baracchino va benissimo, e lì il rumore è proprio nulla. No, no, già va bene, già va bene, già paga, non c'è rimasto nessuno. Io e Marco, poi si è stato tu, poi per il resto nulla. È presente il CRC, quello secco, che è un volatile che si asciuga all'istante? Tu sai se rovina le plastiche o se si può usare in vicinanza di plastiche? No, io, vabbè, io a volte l'ho spruzzato anche nei componenti, nel piastre del colombo, cui tocca un corrode, forse è fatto apposta, boh. Infatti, non credo che sia così... che sia così cosa, se no distruggerebbe, c'è tanto lì dove c'è elettronica c'è anche plastica intorno, bene o male. Va bene, allora gli do una spruzzatina. Gappa, va bene, ma se lo metti la appena olio Singer, quell'olio fine che si usava un tempo nella macchina da cucire, quello lì io nelle ventole dei Gappa uso sempre quello, me apro, soffio bene, poi ci metto nelle pistoncini dove gira la ventola, ci metto quell'olio ed è sempre belle silenziose, vai già. Lo uso anch'io, è molto comodo, è versatile, è ottimo per certe cose. Oh Claudio, ma io poco tempo fa ne avevamo parlato al baracchino, ma chi è che usava il CRC marino per disossidiare i contatti elettronici? Da poco ne avevo parlato. Non lo voglio dire, ma qualcuno una volta mi aveva portato un microfono che non funzionava, che è stato diretto al dottor Giroso, ho detto ma direi molto quel caudoso a bagno ce l'avevi. Oh niente, avevo spostato il CRC, ma il CRC mi sembra i bulloni. Accontoci, mi hanno mangiato tutte le spinette. Sì, no, perché rimane il oleoso, no, l'UD40, il CRC, marino, il balistol, rimane oleosa, non va bene. Invece il Dreigot costa 8 euro, circa. Però è quello secco, quello verde, grigio, con la bomboletta grigia, la scritta verde, quello è perfetto. Disossida e se ne va, e lascia tutto pulito e asciutto. È per la ruggine, per l'ossido, non è per i componenti elettronici. Per i componenti elettronici ci sono gli spray fatti apposta. Non è il buio GRC, no, un circuito stampato. Se ne mangia tutto, non va bene. A parte che è odioso, ma non va bene. È un altro tipo di cose, capite? Tutto lì, vabbè. Vai Gianni. E via. Oh, via. L'ultima volta l'avevo comprato, sarà quasi 10 anni fa, infatti mi sa che una bomboletta la ricompro per qualsiasi evenienza, visto che anche io ho parecchia roba elettronica. Mi avete ricordato di una cosa importante. Appena Fusaro ce l'ha, sì. Tutto già Fusaro. Proprio quella roba lì c'ha tutto, non c'è problema. E allora mi sa che in questi giorni vado, piglio quella bomboletta lì, un paio di nastro vulcanizzante, qualche altro rotto di nastro isolante normale, che serve sempre, dai. Ma io, vabbè, a lui vabbè. Comunque lì la più cordiale è sempre Marzia, la più cordiale, che è anche simpatica, non nel modo di fare. Sì, la più cordiale è simpatica, ma ferro grazie. Là è poverina, vabbè, io non guardo quello. Vabbè, Antonello già professionale, quello che vuoi. Invece un po' il marito è lì, con i capelli grigi, quello sembra sempre che ti stia facendo un favore. Adesso vabbè, non ne parliamo dal baracchino troppo, ma non ti invoglia andare, scusi se ho disturbato, mi volevi dire, quando c'è quello. Sì, vabbè, quello è il padrone adesso, azienda di Marzia, non ho mai molta la zia anche, quindi è tutto di Marzia, e lui è il marito di Marzia, quindi è così. E vabbè, no, io c'ho un buonissimo rapporto, per carità, ci conosciamo la vita. KK, vai Gianni. Ehi, io mi ricordo qua, ho iniziato a bazzicarci quando c'era l'INAPLI in via Galileo Galilei, poi chiamato al centro regionale formazione professionale, e quindi andavo lì a prendere la roba. Adesso, correva i primi anni 80 e vari, 80-81, una cosa del genere. Sì, c'era una vita diffusa, una roba. Tanto una giuranca, che ore sono? Le 7, aspettando che cade un pochino il sole, devo andare a innaffiare il prato, che palle, ogni sera rottura i balli. Vediamo quanti gradi ci sono. 29, io che viene 31. Sto sudando da fermo. No, vai dentro casa, ne ho 20-22. Sta benissimo, c'è un bel fresco. E fuori che sono uscito già 2-3 volte, ma c'è troppo caldo. Oia, è che c'è mamma in casa, se no fosse per me sarei stato davvero a culo nudo mi in casa. E chi mi vede tanto? Chi ti vede? Nessuno. Salvo che è distratto, certe volte sono alla postina la mattina. Ma anche carina mi, sulla quarantina, biondina, capelli corti, magari distratto, te ne immagini, distratto dal caldo e tutto, vado ad aprire. Nudo. Cosa fa? Ci sono così venti. Però vabbè, io nudo non è che sia un bel vedere, con questa pancia che mi ritrovo. Sono un po' fuori forma, un po', un bel. Sì, la pancia fa parte del corrispettivo. Ah, tu dici, la pancia fa parte del sottopancia, è tutto un complesso, tutto correlato. Tutto fa parte del corrispettivo generale, no? Non c'è problema. Già va tutto bene. Vero, profe? Sì, sì, troia. Esci che mi rollo una sigaretta, dai. Sempre rullando stai. Rollando si dice. Rollando? Ah, te lo fai sempre tu? Sì, prendo il tabacco, le cartine, i filtrini. Ormai sono abituato così. Fai così ma ne fumo di manco. Non te devi preparare. Fumi di meno sì, come ce l'hai già pronte, prendi e accendi. Intanto in Thailandia pare abbiano liberalizzato la cannabis e anche la coltivazione, in proprio. In Brasile è una cosa del genere. Si stanno un po' così, si stanno aprendo, chissà che in Italia. Non sai quante proprietà terapeutiche ha la cannabis, a parte gli scherzi. Sì, ma non è buona. Certo, come tutte le cose, come il vino, se ne abusa fa male, ma ti passano tutti i dolori, cose, tutto ti passa, capito, ancora lì. Altro che case farmaceutiche, loro è che temono una cosa del genere. Che non sia monopolio loro, capito? Se è monopolio loro allora non gli sembrerebbe vero, ma se è una cosa veramente libera, come dico io, sarebbe. Vabbè, io poi non è tratto di quella roba in realtà, non è che sia un frazzatore, ma sono abbastanza liberale per certe cose, dai. Non liberale, scusate, libertario, liberale è un'altra cosa. Sì, già va bene, già va bene. Gianni, ho detto bene, libertario si dice, liberale è un'altra cosa, non so. Credo di sì, credo di sì. La cannabis, pur di vendere i loro derivati dal petrolio, a casa e dalla chimica, hanno fatto una crociata gigante, cazzo, per carità. Chi era la mi sfugge, una grossa multinazionale che aveva, adesso mi sfugge, la con la D inizia, boh, avanti me la mente. Non me lo ricordo neanche io. Ah, eccola, la DuPont, è scritto DuPont, praticamente nel fine 800 hanno iniziato praticamente a fare una guerra contro la canapa e di tutte le varie specie, perché poi è abbastanza, come si dice, è abbastanza duttile, si possono estrarre diverse cose, si può fare il tessuto. Cazzo, levi quella dal commercio e proponi altre cose di derivazione chimica. È stata fatta, insomma, una bella campagna di, come ti chiama, di disinformazione, dai, riguardo la canapa. Buona vita. Ma in mia attenzione, ti ha levato più forte dei punti. Cappa, buonasera a tutti, dai, cazzo, buona rete, la canapa, chi siamo di dubbi? I romantici, è più buona. Cappa, buonasera a tutti, dai, vi ho sentito, non sono voluto entrare a capito. Sono voluto entrare a capito, va bene. Buonasera, ben ascoltato, avanti, Rubov. Eia, buonasera anche a lei. Più forte dei punti, così è? No, è la gente più forte di noi. Sono più forti, sono voglio, è buco. Ah, ecco. Lanciarsi, no, ripeti. Ma casa faccia, vai, ho freddo. No, cazzo, un bel. I cazzari di domaggio. Vabbè, là. No, devo entrare un attimino a sciacquarmi, sono arrivato in questo momento. Ho acceso lo di passaggio, e vi ho sentito farvi tenere di trombosa, di cannoni. E i miei gianni con Corona ci vuole tenere i cannoni, con Marco, capito? Ma Marco, per i saluti a Massimo Burdotto, che cambia un po' radio, che mi sono già rotto con questo garage. Ciao Massimiliano, ben sentito, ben entrato. Io sono qua con tra un messaggio e l'altro, una salvatura e l'altra, e una rottura di balle e l'altra in casa, dai. Ritieniti salutato, dai. Non sono molto costante qua in radio, vado e vengo, vengo e vado. Riprendi. Ciao, va, qui tanto anche io, sono andato a lavarmi un attimo la cogliuffa, capito? La passo la propagazione almeno con due fatte e mezzo, sì. Sì, sì, già la passi. Ok, meno male, almeno quello. No, perché certi giorni è tribula, certi giorni non ci sentivamo, almeno conversazioni, sai, di limitrofe nelle borgate, era un casino. Già me ne sono avvisto. Va bene, va bene. Ciao, eccomi, com'è? Tutto bene per il momento, dai. A parte la caldassa. E il pullman con il climatizzatore acceso. Ah, ok, no. Ma ti volevo chiedere già, ma tu sulla terrazza quanto spazio hai? Dove è l'antenna, poi per capire. Cosa intendi per spazio? Ci sono due staffe, lo dugo e basta. No, sopra, sopra proprio dove c'hai il tubo, tu c'hai una parte di quel tetto, no? Del condominio, è un terrazzo calpestabile, dai. Dico, ma tu c'hai una parte oppure cioè non c'è niente, puoi salire solo per sistemare antenne e cose così? Non voglio dirti stupidaggini, non ho mai approfondito, cioè, voglio dire, è del condominio, quindi non mi sono mai posto il problema. C'è un serbatoio dell'acqua e ciccia, che è il nostro. Tu sei proprietario della casa? Assolutamente. Allora c'hai un quinto come c'hanno tutti gli altri? No, perché ti volevo chiedere, siccome lì c'è un bel di sole, io ho 200 semini, se si può mettere qualcosa. C'hai un ottavo, non un quinto, c'hai un ottavo del tetto, quindi sei proprietario anche di un ottavo del tetto, caro Gianni Profeta, capito? Buono a sapersi, non conoscevo, cioè sapevo che era così, però non conoscevo il dettaglio, dai. Meglio così, dai. Per quelle medesimali, essendo proprietario ti aspetta un cavo del tetto, come tutti i proprietari, mentre chi è in affitto no, capito? Questa legge condominiale, articolo 32, vai Condor, Marco Condor. È in giro con saldatori vari, sta facendo cablaggi è in corrente alternata. Cosa? Che dico, in corrente alternata, vai e vieni. Allora, poi non si mi dà, adesso sei rientrato. E io adesso, in questo momento proprio, 5 minuti, va, mi ho tolto le scarpe e adesso sono pronto a entrare a sciacquarmi, no? Vabbè, no, già era giusto così un'informazione, visto che c'è un po' di tetto libero, capito? E qua c'è la cucolita, c'è un po' di semini, capito? Potevamo provare. Ma quella cucolita ogni tanto si sente sottofondo, quella che fischia? No, non è la cucolita, è una specie di... Hai detto, ma ti dici, ma cazzo c'è la cresta? Una calopsite. Cos'è, tutto bianco? No, allora questo è verde, arancione, bianco e giallo. E femmina, mi pare. Ma te non accoppiaggi con il bisogno buio, Massimiliano, perché già annesci. Però lo vende, ma lo vede liscio. Sì, non è che lo vuoi brincano, ve lo appoggi. No, adesso io lo voglio trovare il maschietto, perché così da sola è un caso. Poi quando ti vede sta sempre, cazzo lo prende male sto cattuccello. Sta sempre di crieni. Vuole socializzare, se vuole tu. Io vado, Macone socializza subito, se vuole Macone. Ma è come quello che c'ha Gianni, Massimiliano. No, questa c'ha la cresta dietro, capito? Gianni c'ha i pappagallini. No, c'ha anche le calopsite comunque, sì. Quello c'ha la cresta, mi pareceva il cacatua, quello. Oh, la calopsite, oh. Fai conto che una cocorita leggermente più grande, quasi il doppio più grande, dietro quando ti sente cazzo solleva la cresta tipo lupo pan. Sì, ho capito. Va bene, che va bene. Ok, avanti già. Comunque ci hai semini a regare, no, che a maggio campagna io. Ma te ti muovi malette subito, tu ti fai sgamare subito, lo fa. Invece Gianni è più riservato, capito? Tu spontanei tutto. Ma nessuno, no. E poi io, vedi, tutta la sera riesco a innaffiare, quindi tu cosa ne sai cosa sono innaffiati? Ma hai ragione, Paghiso si è sempre incicciato in radio. Va bene, dai, io vado a sciacquarmi, dai, ci sentiamo a più dopo se coincide, dai, riprendi un breve. Comunque tieniti pronto, i vasetti li ho già comprati. Tutti i sacchetti ho già pronti. Riesce bene, mi, un breve. La usata, più alta dell'antenna escono. Oh, io, ya. Solo chi avevo, per carità. Ah. Vediamo se Marco è ancora alla radio o è da un'altra parte. Ci sei, Marco? Guarda, meglio un bel giro di cannone che 1000 vaccini, garantito. Ma lui lo sai da può fare, Marco. Quando cresce che c'ha la pupuglia, quella bella, resinosa. Ma non lo sai, voglio fare, se ne sale su un terrazzo, si prende un po' di cartina e va, si fuma 4-5 cannoni e si rimane lì. Ah, le cime, quella è tutta bella resinosa, quella è la parte buona, no? Non la... Oh, io, ya. Comunque c'ho un gaggio da voi, ma se non fosse messo curioso, no? Oh, ieri notte, quando era 2 minuti fa, c'era questa super luna, poi più calava sull'orizzonte più diventava rosata, spettacolare, guarda. No, già, ti puoi mettere quel cappellino che c'ha la ventola, quello che vende le cinesi. Ehi, sì, sì. Oh, io, Massimiliano, mamma mia, adesso che ne so, mi sa che tra poco dovrà farmi 2 passi, dai, e niente. Va bene, dai, io vi saluto, ragazzi, mi sciacquo un po' che sono tutto quanto appiccicoso, va. Ci sentiamo dopo, riprendi qua. Ehi, ehi, Massimiliano, va bene, anch'io mi stacco un po', dai, se ci siete ci sentiamo dopo, vado a dare una... Passato l'acqua fuori, già lascio tutto acceso qua, dai, ci sentiamo dopo. Andavex, sì, rimango altri 10 minuti e poi mi sgancio. Buona sciacquata, Massimiliano. Ehi, già, ti conviene andare adesso, io non posso restare, dai, che anche qua un po' c'ho da fare cose in casa, dai, rimaniamo sul generico, ok? Ci sentiamo in migliori occasioni e temperature anche migliori, possibilmente. Ehi, andare, dai, ci aggiorniamo. Ehi, ciao a tutti, ciao Claudio, Giulio, Massimiliano, quindi tutti gli ascoltoni, ciao a tutti, ciao.